Plus Economia. Con Deborah Rosciani. E sono le 17.05, 33 secondi. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Siamo di nuovo insieme anche stasera per Focus Economia, per il punto della giornata economico-finanziaria. La vigilia dell'Epifania, anche oggi le notizie non ci mancano. Gran parte, peraltro, ne avete sentite anche nel giornale radio. A noi è il compito di approfondirle e ce ne aggiungiamo però di altri, di argomenti, oltre alla crisi dei consumi americani che è stata attestata appunto da questa massa di licenziamenti che farà questo colosso molto noto soprattutto per chi va a New York per fare shopping. Macy's, più di 6.000 appunto esuberi e licenziamenti per questo grande gruppo dell'abbigliamento e non solo. Parleremo però anche degli Stati Uniti per altre notizie, soprattutto per quello che sarà il futuro della politica monetaria americana, perché ieri sera sono stati diffusi i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana, quella nel corso della quale in dicembre è stato deciso il primo aumento dei tassi di interesse da un anno a questa parte. La Banca Centrale Americana, come sapete, ha promesso almeno altre tre mosse di politica monetaria restrittiva quest'anno. Detto ciò, però, si dovrà inseguire un po' anche tutta la politica economica invece che verrà adottata dall'amministrazione Trump. Di conseguenza non è detto che gli scatti dei tassi di interesse potranno essere più numerosi. Sarà da vigilare attentamente tutto ciò che Trump appunto metterà in campo in termini di investimenti pubblici, tutto ciò che vorrà generare naturalmente inflazione. Ne parleremo nel corso della trasmissione nell'ultima parte, ma prima parleremo di tanto altro. Parleremo anche di fisco e di lotta all'evasione fiscale a livello internazionale, una piaga che riguarda soprattutto il nostro paese, come è noto, ma adesso per l'Italia c'è una questione in più da affrontare, anche se lo ha fatto con un rush finale, come sempre capita. Anche il nostro paese ha aderito al Common Reporting Standard, che è il sistema di condivisione automatica dei dati dei contribuenti, un sistema adottato a livello OCSE. Cercheremo di capire e di tradurre intanto in termini umani questa questione per far capire quale sarà l'impatto per tutti noi contribuenti di queste novità, di questo grande fratello che allarga sempre di più i suoi confini. Quindi, visto che in Italia abbiamo tanto paura di tutte quelle iniziative di controllo delle nostre anche abitudini di consumo e finanziarie, chissà se questa novità in più ci mette ancora di più sotto i riflettori, ma soprattutto quali sono anche gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale, che è sì una piaga italiana, ma è un problema ben comune anche a tante altre economie internazionali. Parleremo poi ancora una volta di vicende bancarie, perché la settimana prossima il Veneto Banca e Popolare di Vicenza appunto faranno sapere in che misura intendono, una misura per la verità ridottissima perché la percentuale si conosce già, ma la modalità con cui intendono risarcire, indennizzare gli oltre 100.000 risparmiatori che in questo momento hanno carta straccia ma che in passato hanno sottoscritto le azioni di queste due banche, ma che con un paio di circostanze appunto le hanno viste praticamente quasi azzerare. Addirittura voglio ricordare per esempio che la Popolare di Vicenza fino all'estate del 2014 aveva distribuito fra i propri clienti, azionisti, soci azioni che valevano più di 62 euro, ma nel giro di 2 anni praticamente il prezzo delle azioni è diventato 10 centesimi e a questo punto sono tutti inferociti. Queste peraltro non sono banche risolte, come è capitato per Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti, per cui c'è da intraprendere un'iniziativa diversa rispetto agli indennizi invece automatici che sono stati riconosciuti agli obbligazionisti delle banche che ho citato prima, appunto, che sono indennizi che valgono l'80% del capitale iniziale. In questo caso invece si segue una strada diversa, ma ce la spiegherà poi più tardi il nostro collega delle Sole 24 Ore, Fabio Pavesi. Parleremo poi naturalmente anche della giornata di borsa, come facciamo sempre. È stata una giornata allora in gran parte negativa per tutte le piazze europee. Poi c'è stato un cambio di direzione a metà pomeriggio, adesso si ricambia di nuovo perché vedo tutto di nuovo scendere, anche sulla scia di quanto sta facendo Wall Street, che sul Dow Jones, dove si attende che si tocchi questo record dei 20.000 punti, in realtà adesso si scende dello 0,35% e quindi si condiziona negativamente anche tutta l'Europa. Parigi meno 0,34%, Francoforte meno 0,25%, Londra ancora sulla parità, lo Standard & Poor's negli Stati Uniti perde lo 0,30% e Milano ancora si tiene disperatamente ancorata alla parità, ma la tiene a fatica. Nel nostro ultimo collegamento di borsa alle 16.30 Milano guadagnava mezzo punto, lo ha rapidamente bruciato, adesso è meno 0,05%. Crescono ancora però molti bancari, sono in calo Luxottica, Telecom. Luxottica oggi probabilmente risente anche di questo scivolone del dollaro, vedo l'euro che aggancia adesso 1,06, quindi una rimonta incredibile della moneta unica europea sul biglietto verde, magari cercheremo di capire anche questo con il nostro collegamento dagli Stati Uniti più tardi. Se volete commentare con noi i fatti del giorno avete la solita modalità, quella di scriverci 349-238-6666 è il numero che potete utilizzare, riceviamo i vostri sms, riceviamo i vostri messaggi attraverso WhatsApp. Adesso il via alle notizie in breve. Allora, partiamo come sempre dal petrolio. Il WTI americano vale adesso 53,8 dollari al barile, il Brent a Londra a 57. Sono stati diffusi proprio poco fa i dati sulle scorte settimanali di petrolio. Vedo un calo abbastanza netto di oltre 7 milioni di barili appunto di barili. Questa è la riduzione delle scorte settimanali secondo il Dipartimento dell'Energia americano. A giudicare appunto dalle quotazioni del greggio non vedo un particolare appunto impatto sulle quotazioni e quindi magari più tardi ci faremo dal nostro collega appunto americano interpretare anche e decifrare questa riduzione delle scorte, se è questo anche l'elemento che invece ha un impatto sul mercato valutario. Detto questo, questo è il valore del petrolio. L'oro oggi vale 1178,6 dollari l'oncia, quindi in netto rialzo rispetto alle quotazioni degli ultimi giorni. Lo avete sentito anche nel giornale radio, il Bitcoin, la valuta digitale della quale si è fatto tanto discutere negli ultimi tempi, aveva toccato i 1000 dollari nelle ultime giornate, avevamo più volte appunto evidenziato questo record, ma nel giro di poche, questo è il motivo per cui tutte le persone che vorrebbero avvicinarsi ad un investimento in questo strumento le ovviamente scoraggiamo quanto più possibile, oggi il valore è letteralmente crollato di oltre 20 punti a 887 dollari, nelle ultime ore era invece appunto balzata ai massimi storici. La volata era stata tirata dalle restrizioni sui cambi in Cina, India e Venezuela, dove molti acquistano Bitcoin per tutelare i propri risparmi, ma il crollo odierno dimostra ancora una volta come invece stiamo parlando di una valuta oltre che digitale molto volatile, per cui è bene appunto starne lontani, a meno che non si parli di investimenti appunto di carattere proprio professionale. Il rialzo graduale dei tassi di interesse per ora è appropriato, questo è quanto emerge dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve, ne parleremo appunto più tardi, gli esponenti della Fed hanno concentrato nell'ultima riunione, secondo quanto riportato dai verbali, l'attenzione sull'impatto potenziale degli stimoli della politica di bilancio americana che potrebbe indurre la appunto banca centrale statunitense ad accelerare il ritmo di aumento dei tassi di interesse. Tutto questo intanto alla vigilia della pubblicazione del dato sulla disoccupazione di dicembre che verrà diffuso domani. Oggi sono arrivate delle statistiche che generalmente appunto anticipano questo dato. Intanto abbiamo l'indicatore dell'agenzia ADP che è negativo, molti meno posti di lavoro creati in dicembre appunto rispetto al previsto. Ci sono poi anche le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione che sono invece calate molto di 28.000 unità ai minimi delle ultime 8 settimane, quindi si tratta di un dato sicuramente migliore delle attese da parte degli analisti. Affonda intanto Macy's in borsa, meno 11%, anche ieri il titolo aveva perso molto dopo aver annunciato una forte crisi appunto delle vendite, soprattutto sotto il periodo di Natale, quando invece ci si aspetta un boom e di conseguenza il gruppo corre ai ripari con un taglio di 6.200 posti di lavoro. Per quanto ancora, signor Draghi, il tabloid tedesco Bild chiama in causa il presidente della Banca Centrale Europea. tasso zero più 1,7% di inflazione uguale via i risparmi. Lo scrive provocatoriamente il giornale appunto di Axel Springer, rispondendo riprendendo i dati divulgati 2 giorni fa appunto sull'inflazione tedesca di dicembre. E quindi il giornale tedesco sentenzia: solo Mario Draghi può stoppare questi sviluppi. La BCE ha lasciato il tasso a zero, ricorda, ma molti esperti dicono i tassi devono finalmente risalire. Lo vedremo appunto se quest'anno qualche diversificazione dell'orientamento della BCE ci sarà, anche alla luce appunto dei dati sull'inflazione che sono stati diffusi ieri, che hanno visto nell'Eurozona un dato ai massimi da 3 anni a questa parte. Deutsche Bank patteggia con il fisco americano e si impegna a pagare 95 milioni di dollari. Il contenzioso era stato avviato nel 2014 per fatti contestati che risalgono invece al 2000 e riguardano una frode fiscale da decine di migliaia di dollari. Gli Stati Uniti hanno accusato la banca tedesca di aver creato una società di comodo ad hoc per evitare di pagare le tasse su una transazione di azioni della Bristol Myers Squibb. Siamo lieti di risolvere questo contenzioso, hanno detto anche gli esponenti della banca, banca che sta cercando di chiudere tutta un'altra serie anche di contenziosi legali con gli Stati Uniti, molto più salati di questo, prima appunto che parta peraltro ufficialmente l'amministrazione Trump. Ricordiamo che un mese fa ha accettato di pagare oltre 7 miliardi di dollari per chiudere il contenzioso legato ai mutui subprime. È stato diffuso oggi il rapporto trimestrale dell'Istat, sempre sullo stato di salute economico-finanziario del nostro paese, le cifre più importanti riportate dal rapporto. Allora, il potere d'acquisto delle famiglie italiane, cioè il reddito reale, nel terzo trimestre del 2016 sarebbe aumentato dello 0,1% su base trimestrale, dell'1,8% su base annua. Sui consumi invece che cosa abbiamo? Una ripresa di questi, c'è anche un leggero calo però della propensione al risparmio delle famiglie italiane, che si attesta, sempre in riferimento al terzo trimestre dello scorso anno, al 9,3%. La flessione congiunturale della propensione al risparmio, osserva l'Istituto di Statistica, deriva da una crescita dei consumi finali di poco superiore a quella del reddito disponibile appunto delle famiglie consumatrici. Un aggiornamento anche sul rapporto fra il deficit e il PIL nel terzo trimestre, che è stato pari al 2,1%, in lieve peggioramento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Poi il dato sulla pressione fiscale, che è stata pari al 40,8%, c'è secondo l'Istat una leggera riduzione sull'anno precedente, e infine sarebbero fermi i profitti delle società, crescono però congiuntamente appunto gli investimenti. Allora, questo è un tema che peraltro più tardi approfondirà anche in Si può fare il nostro Alessio Maurizi. Lo SPI dell'Emilia Romagna, il sindacato dei pensionati che fa capo alla CGIL, usa come retribuzione, ma dice solo per i pensionati che svolgono del lavoro occasionale qualche ora alla settimana, i voucher, che sono, dice, l'unica forma per questo tipo di prestazioni ed è l'unica forma che la legge concede per non cadere nel lavoro nero. Allora, non c'è niente di male neanche a naturalmente divulgare questa notizia, se non fosse tutta la battaglia che la CGIL fa contro l'utilizzo appunto dei voucher, dei buoni lavoro, per remunerare anche molti altri tipi appunto di lavoro e di prestazione professionale. Tutte queste spiegazioni sono state date dallo stesso segretario regionale dello SPI CGIL, Bruno Pizzica, che ha confermato così un po' tutte una serie di anticipazioni che erano state diffuse dai giornali locali. In questo modo, ha detto, vengono retribuiti solo pensionati che prestano il loro tempo in modo volontario e in via occasionale e limitata. Non si tratta di lavoro attivo e noi, ha detto, non abbiamo alternative. A chi chiede se non veda una contraddizione con la battaglia appunto della CGIL contro l'utilizzo dei voucher per pagare i lavoratori, Pizzica si è limitato a sottolineare come lo SPI, il sindacato dei pensionati, sia contrario ai voucher per l'uso improprio quando appunto se ne fa in questo modo. Sulla retribuzione del lavoro occasionale si possono trovare altre forme contrattuali che li sostituiscano. L'ultima notizia prima del nostro primo approfondimento di oggi, poi magari ne avremo anche altre da dare, perché ci sono i dati anche su tutto il movimento che si creerà in questo lungo ponte dell'Epifania e che vedrà molti italiani appunto muoversi per questi ultimi giorni di vacanza. Volevo però fare qualche precisazione invece a proposito di quanto ha fatto l'Avvocatura dello Stato, che praticamente è, come dire, l'organo legale che agisce per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che oggi ha depositato le tre memorie sui referendum abrogativi in materia di lavoro, sui quali, come sapete, appunto la Corte Costituzionale deve fare le sue valutazioni sul piano dell'ammissibilità entro l'11 gennaio. L'11 gennaio conosceremo la decisione finale. Allora, i quesiti che la Consulta esaminerà, per chi non se lo ricordasse, sono tre. Uno sulle modifiche all'articolo 18 apportate dal Jobs Act in materia di licenziamenti, uno sulle disposizioni che limitano la responsabilità in solido di appaltatore e appaltante in caso di violazione nei confronti del lavoratore, uno sui cosiddetti voucher, quindi ritorniamo sull'argomento, cioè i buoni lavoro per il pagamento delle prestazioni accessorie previsti sempre dal Jobs Act. Allora, cosa ha detto la Consulta? Ha detto che l'abrogazione attraverso il referendum delle norme sui voucher previste dal Jobs Act rischia di produrre un vuoto normativo, quindi una posizione molto chiara. E poi il quesito referendario per abrogare le modifiche apportate con il Jobs Act all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ha carattere, sentite qua il termine un po' complicato, ma ve lo dico lo stesso, ha carattere surrettiziamente propositivo e manipolativo, per questo secondo la Consulta si palesa inammissibile. Vedremo però insomma cosa deciderà la Corte Costituzionale l'11 gennaio anche sulla scorta di questa presa di posizione dell'Avvocatura dello Stato. Direi che con le notizie in breve più che sufficiente andiamo al primo approfondimento di oggi. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi, perché ci aiuta a decifrare questa notizia, Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Alessandro e benvenuto a Focus Economia. Ciao Deborah, grazie. No, intanto stavo, scusami, guardando anche i messaggi dell'ascoltatore, non comprendo, mi scrive una persona, i toni entusiastici di un'eventuale rimonta dell'euro sul dollaro, ma io veramente mi sono limitata a dare la notizia di cronaca, proprio non ho nulla da entusiasmarmi rispetto ai movimenti delle valute, registro quello che succede, mi è sembrato un movimento molto vistoso oggi, per cui proprio non ho nulla da ridere, chiudo, ma ogni tanto veramente mi fanno un po' sorridere i commenti dei nostri ascoltatori, come capita anche a Sebastiano Barisone e a Simone Spezia quando sono al timone di questo programma. Allora Alessandro, tornando a noi, come scrivi tu stamattina sulle Sole 24 Ore, il 2017 sarà l'anno della svolta al nero internazionale. Sottolineo internazionale perché, pur essendo noi campioni di evasione fiscale, no Alessandro, comunque è una piaga che ci accomuna anche a molte altre economie a livello mondiale. Dal 1 gennaio è ufficialmente iniziata l'era dello scambio automatico di informazioni fiscali. Anche l'Italia finalmente ha recepito, lo ha fatto con un pochino di ritardo, con un rush finale, ma ce l'ha fatta, una direttiva appunto europea che la fa partecipare in qualche maniera al CRS, il Common Reporting Standard, il sistema di condivisione automatica dei dati dei contribuenti. Che cos'è Alessandro questo sistema? Che portata ha questa novità per noi contribuenti italiani? Mi rendo conto che parlare poi di lotta all'evasione fiscale, anno della svolta, eccetera, può sembrare un po' retorico, no? Perché quante volte l'abbiamo sentito dire. Però bisogna adesso focalizzarsi sulla novità che è davvero importante. La lotta al nero internazionale comincia nel 2009, con un G8 dell'aprile del 2009, in cui sulla scia degli americani, dell'agenzia fiscale americana, che è quella che ha dato là al movimento, si decide di dare la caccia ai paradisi fiscali, perché i debiti sovrani degli stati hanno raggiunto nel 2009 livelli assolutamente di guardia, e quindi si è capito che bisognava andare a pescare nell'evasione fiscale. Da lì è partito un percorso che adesso è arrivato al suo esito finale, cioè quello di cui parlavi prima, il Common Reporting Standard, cioè lo scambio automatico di informazioni fiscali. Perché è una data epocale? Perché è entrato in vigore il 1 gennaio 2017, i dati a cui si fa riferimento però retrocedono fino al 1 gennaio 2016, e questa è una gigantesca banca dati con un funzionamento omogeneo già ad oggi in 122 paesi, che permette all'agenzia fiscale parliamo di quella italiana per esempio, visto che è quella che ci interessa, di avere accesso diretto a tutti i conti correnti, ai risparmi, forme di risparmio gestito, polizze assicurative, quant'altro, trust, eccetera, che un contribuente italiano ha acceso presso uno di questi 122 paesi. Ora, stiamo parlando di ormai tre quinti del globo, ma stiamo parlando soprattutto di tutti i paesi avanzati, delle economie avanzate, dei sistemi finanziari affidabili. Estranei, non ancora entrati nel programma di questo CRS di scambio automatico, ci sono per esempio molti paesi dell'Africa, alcuni paesi del Sud America, quelli ancora un po' più fiscali, un po' più oscuri, poco trasparenti dal punto di vista fiscale. Il significato di questa operazione qual è? Che nascondere i soldi al fisco, in Italia come in Francia, come negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Corea, diventa davvero un'operazione molto ardua oggi e che comporta, non è impossibile, ma comporta l'assunzione di un rischio paese, cioè andare ad allocare i soldi in posti dove potrebbero sparire, dall'Asia, da certi paesi asiatici fino all'Africa, eccetera. Parliamo di svolta epocale su Sole di oggi, perché effettivamente questa possibilità per la nostra agenzia fiscale di digitare i dati di un proprio contribuente e vedere la disponibilità che questo contribuente ha in 122 paesi del mondo, e quindi con la possibilità poi di contestarli, di contestare il mancato pagamento delle imposte, sanzioni, interesse, reati fiscali, reati non solo fiscali. Questo effettivamente è una svolta. Perché, se mi consente ancora qualche secondo? Sì, sì, volentieri. Questa non solo ci sarà la possibilità di accesso immediato, ma gli intermediari finanziari di tutti questi 122 paesi dovranno, entro ancora la fine del 2018, stabilito questo, dovranno integrare tutto questo patrimonio di informazioni con le verifiche previste per l'antiriciclaggio internazionale. Perché è importante? Perché nelle leggi antiriciclaggio, nelle regole antiriciclaggio è previsto che chi riceve un versamento, un patrimonio, un'amministrazione di patrimonio, deve procedere all'identificazione molto approfondita del proprietario, non solo di chi sta versando i soldi, ma del titolare effettivo, quello che in inglese si chiama il beneficial owner. Vuol dire questo che anche l'utilizzo delle teste di legno, insomma delle teste di paglia, mi ero già spaventata, dico chissà cosa vuole dire, dei prestanomi, diventa praticamente impossibile, sì. Perché è la responsabilità penale ormai internazionale di tutti gli intermediari nella mancata individuazione di questo titolare effettivo dei conti. Per tirare a sintesi tutto quello che abbiamo detto, mi rendo conto che è anche un po' complesso. No, ecco, andiamo magari, che ne so, Alessandro, provando a fare un esempio per un ascoltatore, no, che può essere teoricamente interessato da tutto questo grande cambiamento. Cosa significa per un contribuente italiano, adesso a parte la Rosciani che magari non ha sicuramente tutti questi grandi interessi a livello internazionale, ma per un'impresa che magari ha delle relazioni commerciali internazionali, un'impresa italiana che esporta o che importa, è quello magari, come dire, quell'ambito che deve essere un po' attento a queste questioni. No, ecco, allora stiamo parlando del seguente contesto: evasione fiscale. E quindi è un problema quello del common reporting standard e quant'altro. È un problema che riguarda più che altro le persone fisiche. Ah. È difficile che delle aziende, tanto più delle multinazionali, se non impossibile, che viaggino nel regime di evasione fiscale. Lì la politica è diversa, è quella semmai dell'elusione fiscale, della scelta del regime, certo, più favorevole, più conveniente. Ma qui quando parliamo di queste cose quindi parliamo proprio di persone fisiche, ecco, quindi di un contribuente che vuole sottrarsi alle maglie del fisco, esatto, del proprio paese, quindi cerca non tanto un regime fiscale più vantaggioso altrove, ma quanto proprio di andare. Tanto è vero che mi permetti di aggiungere anche un'altra informazione. Questa data del 2017 è stata preceduta, e lo sappiamo bene anche noi in Italia, da una serie di programmi fatti non solo in Italia ma in tutti i principali paesi del mondo e d'Europa sulla emersione volontaria, sulla voluntary disclosure. Il significato è diamo la possibilità ai contribuenti di mettersi in regola, cioè di esibire al fisco quello che non ha mai esibito, di pagare le tasse su quello che non ha mai pagato, se nonostante due voluntary disclosure, ricordiamo che in Italia è in corso il secondo programma di emersione volontaria, se nonostante questi due programmi il contribuente ancora fugge, va bene, allora da quel momento, dall'anno pro, dal primo gennaio di quest'anno e per i paesi più ritardatari dal 1 gennaio del 2018 l'Agenzia Fiscale Italiana potrà andare a vedere se un contribuente si è difeso fino alla fine, diciamo così. Allora Alessandro, io ho terminato il tempo a nostra disposizione, però secondo me vale la pena portare questo tema anche nell'altro programma del mattino a Cuore Denari, perché vedo che già molti ascoltatori stanno proprio provando a formularci delle domande concrete. C'è chi chiede vale anche per gli immobili questa nuova meccanismo appunto di diffusione delle informazioni eccetera, per cui ci ritorneremo senz'altro. Intanto abbiamo capito l'abbozzo generale del tema. Grazie Alessandro Galimberti, buona serata. Grazie. Dobbiamo andare in pausa, intanto ci ha raggiunto anche il nostro prossimo ospite che è Fabio Pavesi, io intanto ne approfitto per salutarlo, benvenuto. Buonasera. Eccoci agli qua. Ascoltatori. Allora, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, le nostre grandi protagoniste fra un po' del prossimo approfondimento di Focus Economia. Focus Economia. Allora, parlando di operazioni straordinarie di finanza, io conoscevo questi acronimi, questi termini, questi concetti, l'OPA, l'offerta pubblica d'acquisto, l'offerta pubblica di acquisto e scambio, l'offerta di scambio, ma l'offerta di transazione ancora non l'avevo sentita, almeno nei termini secondo la quale la poniamo oggi, ed è quell'operazione alla quale si preparano Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca nei confronti appunto dei propri azionisti che provano a risarcire dopo la bella, non so, non vorrei guadagnarmi qualche querela, ma a questo punto tutte quelle che potenzialmente ci potevamo guadagnare ce le siamo già guadagnate, le abbiamo anche scampate, insomma tutti quegli ex azionisti che sono stati un po' gabbati da queste due banche, perché da loro avevano sottoscritto appunto delle azioni con valori molto alte, poi con tutta una serie di operazioni straordinarie queste due banche sono arrivate appunto ad azzerare il prezzo di queste, delle quotazioni appunto di queste azioni, e quindi di conseguenza adesso in qualche maniera questi azionisti devono essere risarciti, indennizzati, ma certo che la proposta, se è quella che circola fino a questo momento, non è che sia da considerarsi molto soddisfacente. Fabio Pavesi, no, mi viene da ridere perché noi stamattina a Cuore Denari abbiamo parlato invece degli obbligazionisti subordinati che pian piano appunto vengono risarciti con questo indennizzo forfettario dell'80%, poi per molti sarà anche insoddisfacente, le associazioni dei consumatori si lamentano anche su questo, ma nel giro di un anno questa questione più o meno si cerca di metterla a posto. Qua stiamo parlando invece di tutta un'altra partita. Quanto vogliono riconoscere agli ex agli azionisti, perché sono tuttora azionisti, sì, questi beh, signori qua sono molto diluiti, nel senso che con l'ingresso di Atlante in ambedue le banche, Atlante al 99 punto qualcosa, quindi gli azionisti di fatto sono stati azzerati. Sì, gli azionisti rischiano di più degli obbligazionisti, questo è un caso da manuale, ovviamente, capitale di rischio. È vero che tutto il processo di sottoscrizione delle azioni in quelle due banche venete era quantomeno anomalo, nel senso che non c'era una corsa allo sportello per aggiudicarsi un buon titolo, ma come si è visto dalle inchieste, spesso la banca un po' aveva di persuasione, così sì, aveva questa modalità così di scambio: io ti faccio un mutuo, un fido, una quota di questo mutuo fido, un 10%, mi sottoscrivi azioni della banca che, non essendo quotate, venivano avevano un prezzo stabilito dai CDA, quindi da Zonina Vicenza, da consorte a Veneto Banca. La stranezza che negli anni della crisi bancaria queste due banche avevano i prezzi in costante ascesa, e questa cosa avrebbe dovuto in qualche modo avvertire i sottoscrittori, che però, ripeto, in questo paese l'educazione finanziaria è molto arretrata. Vabbè. C'era un rapporto fiduciario di vecchia data, perché sono banche del territorio dove magari già il nonno era il conto corrente, poi il padre, poi il figlio, quindi c'è un rapporto fiduciario che legava la banca col proprio territorio, e spesso appunto i cittadini, in qualche modo soci inconsapevoli, diventavano appunto soci ed erano tranquillizzati dal fatto che l'azione cresceva nel tempo, prendevano anche un dividendo, questo fino agli anni più recenti. Ecco, il problema è che quella valutazione era del tutto arbitraria, nel senso, come si è visto, era una valutazione che prescindeva dal fatto che le due banche avevano una mole di crediti malati tale che avevano di fatto tenuto sotto il tappeto, e che poi la vigilanza ha fatto scoperchiare provocando le perdite miliardarie. Ecco, se questa situazione fosse stata comunicata al mercato dei soci, forse non avrebbero comprato, certo. E quindi c'è stato un raggiro, insomma, esatto. In qualche modo. Adesso in queste banche c'è Atlante, ci sono anche nuovi vertici, per esempio per la Popolare di Vicenza c'è Fabrizio Viola, che peraltro settimana prossima parlerà anche ai 1000 dipendenti della banca, perché dovrà spiegare loro come dovranno comportarsi allo sportello con i clienti che andranno a trattare per capire se accetteranno questo ristoro parzialissimo. Sì. A quanto ammonta, Fabio? Le agenzie parlano di un 15%, il problema è che il 15% è calcolato, si parla di un euro per azione, allora io non so se questa è la cifra. E il 15% un euro vuol dire che il diritto di recesso per ambedue, cioè la possibilità di vendere, poi non è stata concessa prima dell'arrivo di Atlante, era di 6 euro per una e di 7 euro per l'altra, quindi se si restituisce un euro è più o meno quel 15%. Il problema è che il 15% di fronte a una banca, la Vicenza, che valutava le sue azioni 62,5 euro, poi scese a 48, poi scese a 7, poi scese a 0,1. La Veneto Banca 40,5, scese a 30, poi scese a 7, poi scese a 0,1. Capite bene che quel ristoro lì è una magra consolazione, nel senso che se facciamo i calcoli, i 200.000 soci, perché sono 120.000 Vicenza e 88.000 a Montebelluna, avevano investito in titoli che valevano, prima appunto dell'arrivo delle inchieste, la bellezza di 6,2 miliardi per Vicenza e 5 miliardi per Montebelluna. Sono 11,2 miliardi. Se tu ristori anche un euro per azione, i calcoli miei dicono 200 milioni, cioè praticamente... Diciamo che per disinnescare tutto il potenziale contenzioso legale, che peraltro è già partito per certi versi, perché già le associazioni dei consumatori stanno cavalcando questa battaglia, assistendo molte persone, non so se è proprio la strada giusta proporre questa percentuale. Vabbè che risorse non ne hanno, però il problema è che quello è capitale di rischio, quindi in tutte le situazioni un azionista rischia i propri soldi e possono bruciarsi completamente, come nel caso anche di Monte dei Paschi. Cioè l'obbligazionista è diverso, è un creditore della banca, l'azionista ha deciso di scommettere sul capitale di quella banca, e quindi se la banca fallisce in qualche modo viene azzerato. Non bisogna essere anche troppo generosi, non so come dire, nel senso che altrimenti chiunque comprerebbe azioni. È uscito fuori questo ragionamento anche stamattina a Cuore Denari, perché qualche ascoltatore dice, ma insomma, se passa sempre il principio che uno fa un investimento pure ad un certo rischio e poi comunque se gli va male lo devi risarcire, certo, indennizzare, deve intervenire o lo Stato per il caso delle quattro banche risolte, qua la strada è diversa. Certo che anche questo è un messaggio sbagliato. Detto ciò, vale il presupposto che hai fatto tu prima, vale, come sono state sottoscritte queste azioni. C'era assolutamente una realtà drogata, venduta a piene mani dalla propaganda dei presidenti di due banche, le banche solide e sicura, il valore d'azione sale, quando in realtà i problemi erano nascosti veramente sotto il tappeto e c'è voluta la vigilanza a scoperchiarli. Quindi le banche erano malate, ma come dire, i CDA delle due banche davano un'immagine di grande solidità e sicurezza. Questo si chiama falsa rappresentazione, falso in bilancio. Infatti le indagini che vedono coinvolti i vertici parlano proprio di ostacolo alla vigilanza e di falso in bilancio per ambedue. Quindi gli azionisti hanno anche ragione a dire: mi hanno venduto una cosa che non valeva quello che valeva, pretendo un ristoro. Andrà valutato, secondo me, caso per caso. È ovvio che se uno aveva quantitativi molto elevati e li ha comprati come dire, in anni molto vicini, è stato forse più fregato, perché l'aumento di capitale fu fatto a quei livelli molto alti. Se uno aveva le azioni da anni molto lontani, era quantitativi bassi, insomma, caso per caso andrà valutato, secondo me. No, però poi ricordiamoci anche che anche se ci fosse stato qualche risparmiatore, investitore, che si fosse accorto di quello che non andava, magari si presentava allo sportello per vendere queste azioni, diciamo anche che non veniva concesso. Negli ultimi due anni sono state bloccate, ecco. L'altro problema è proprio quello lì. Avendo un problema di crisi, avendo il patrimonio che si assottigliava, le due banche hanno smesso di ricomprare i propri titoli, e quindi chi ha comprato dal 2014 in poi è stato di fatto gli è stato vietato di rivendere i titoli della banca. Questi andrebbero ristorati, sì, perché visto che era la banca che compravendeva i propri titoli, se a un certo punto fai richiesta di vendere in anni non sospetti, 2014, 2013, 2015, la banca te lo vieta, hai diritto a essere ristorato. E insomma, per tutti gli ascoltatori che chiedono come faccio a sapere se devo in qualche maniera accettare la proposta o no, allora qua da quello quello che ci raccontano le agenzie, questa mi ha fatto veramente sorridere perché mi fa molto pensare a quelle situazioni alla Casa Bianca di piena emergenza internazionale che hanno a che fare con il terrorismo. A Vicenza è stata allestita, Fabio, una situation room che con la partecipazione di tutte le funzioni della banca coinvolte nell'operazione, a partire da quella legale, sarà attiva 24 ore su 24. Tu ci rivedi dei risparmiatori alle 3 di notte chiamare la Banca Popolare di Vicenza per sapere, ma io insomma ho investito 50.000 euro nelle vostre azioni, adesso me ne dovete ridare indietro quante? Spiegatemi un po' se mi conviene aderire o meno. Forse andava fatto la situation room quando venivano vendute lo sportello, lì situation room proprio non ce n'era, anzi erano caldeggiate l'acquisto di azioni della banca, la banca era solida, correva, era in buona salute, non era quotata, aveva perso meno degli altri, anzi non perdeva. Insomma, è una storia triste, molto amara, perché se pensiamo che le due banche venivano valutate in modo irrealistico e arbitrario, 11 miliardi di euro, e oggi di fatto valgono zero, perché ripeto, Atlante ha dovuto mettere 2 miliardi non e mezzo non sono risolte come le altre 4, ma di fatto sono quasi risolte, e adesso ha dovuto iniettare altri 900 milioni, 601 e 300 all'altra per farle andare avanti, e si prospetta una fusione tra le due banche in cui il capitale dovrà essere di nuovo ricapitalizzato. Per fortuna che Basilea 4 è ferma. Ma sì, è ferma, però capite, allora il problema di queste due banche è molto semplice. Adesso, come dire, sono state salvate una volta, però non illudiamoci che possa rinascere domani, perché sono banche dove i costi superano i ricavi, e una banca in cui i costi superano i ricavi poi fa fatica a non fare perdite, e due hanno tutte e due crediti malati tuttora, nonostante le pulizie, che sono pari al 25% degli impieghi. Questa roba qui diventeranno prima o poi perdite, quindi andranno ricapitalizzate per chissà quanto tempo, in cerca magari di una soluzione anche diversa. Quindi è la fine di una crisi per certi aspetti e l'apertura di un corso nuovo, che però sarà molto periglioso, insomma. Allora, intanto, ecco, gli step sono questi. Il prossimo è che lunedì 9 gennaio a Padova i board di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza presenteranno ai vecchi soci sulle azioni appunto azzerate questa offerta di transazione che vale il 15% rispetto al rispetto al capitale investito, cioè investito. Se uno ha messo 100 euro doveva avere 15 centesimi, ecco. Quindi la perdita è dell'85%. Trovo un caso. Pochino anche discutibile un altro aspetto: queste persone qua avranno appena 2 mesi di tempo, perché l'offerta dovrebbe concludersi ad inizio marzo, per decidere o meno se aderire, quindi dovranno fare delle valutazioni, sì. Faccio il contenzioso legale o aderisco a questo. Ma infatti io prospetto sempre, che ci sarà un'adesione volontaria di chi non ha un legale, piuttosto che zero si fa ristorare di un 15%. Ci sarà anche qualcuno che rifiuterà l'offerta, si è già costituito parte civile, ha chiesto il danno e probabilmente andrà avanti per vie legali. Il ristoro serve anche in qualche modo a rintuzzare le richieste legali. No, infatti che diciamo valgono, che proprio per disinnescare il contenzioso legale, dicono. Il contenzioso legale vale circa 900 milioni per ambedue, quindi le due banche dicono: io ristoro anche per evitare che questa valanga di cause legali poi mi azzoppi per il futuro, e quindi lì si tratterà, ogni investitore deciderà che cosa fare. Presumo che alcuni andranno avanti con le cause legali, non tutti aderiranno. Ci sentiamo prossimamente per riparlarne, Fabio. Grazie molte per essere stato con noi. Adesso facciamo il traffico, sì, Roberta, tra poco. Focus Economia. Allora, la giornata di borsa vede Milano sul finale più 0,08%. Insomma, questo suo tentativo disperato di mantenersi in territorio positivo è riuscito, e vedo anche che le altre borse europee alla fine, nonostante la sbandatina di poco fa, hanno visto appunto sul finale un quadro positivo, appunto concretizzarsi un quadro positivo di poco, ma Parigi più 0,03%, Francoforte più 0,01%, Londra meno 0,01%, per cui parità anche per la City, Milano più 0,08% sul FTSE MIB. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Deborah. Allora, vedo Wall Street è negativa, noi tra un po' ne parleremo con Marco Valsania da New York, quindi ti esonero dalla questione statunitense, meno 0,6% adesso sulle paniere americane. Andiamo subito ai fatti del giorno di Piazza Affari, guarda qua, vedo un protagonista ancora una volta non proprio sconosciuto delle ultime sedute, il Banco BPM, anche oggi BPM si porta a casa un più 3,75%, abbiamo delle novità? No, non ci sono novità, però va segnalato che dalla quotazione, cioè dal 2 gennaio, ha guadagnato il 25% questo titolo, che già come abbiamo detto nei giorni scorsi era stato molto penalizzato in tutta la seconda parte del 2016 dopo l'annuncio della fusione e l'aumento di capitale del Banco Popolare, e soprattutto vanno segnalati ancora scambi consistenti perché è passato di mano oltre il 4,3% del capitale in una società dove l'azionariato è ancora un po' tutto da definire. Nei giorni scorsi erano uscite indiscrezioni sull'ipotesi che alcuni soci storici italiani del Banco Popolare si possano far quadrato per costituire un nocciolo duro di azionisti che possono avere un 10% del capitale, assicurare una certa continuità e stabilità almeno di una parte dell'azionariato, ma l'assetto azionario è un po' tutto da definirsi e probabilmente, come segnalava oggi qualche articolo di giornale, nei prossimi giorni con l'obbligatorietà delle comunicazioni Consob oltre le soglie rilevanti, può darsi che qualche grande fondo o qualche grande investitore venga allo scoperto dicendoci che ha assunto una posizione importante in questo che è il terzo gruppo bancario italiano. Ce n'è già uno, la Banca Centrale di Norvegia figurerebbe al 3,64% di Banco BPM dal 2 gennaio, data d'inizio delle negoziazioni del nuovo istituto. E quindi già qualcuna ne sta venendo fuori e mi pare anche un investitore non irrilevante, insomma, una banca centrale, che dici? Sì, è un investitore che solitamente è molto attento al mercato italiano, che ha preso diverse posizioni negli ultimi anni nel capitale anche di banche italiane, e appunto questi sono segnali che si va a definire innanzitutto di una certa attenzione per il capitale di questo istituto e come confermano anche alcuni report degli analisti dei primi giorni della quotazione, dall'altro canto appunto di una certa mobilità e movimento nell'azionariato che avendo degli azionisti così spezzettati, così frammentati, insomma potrà emergere nelle prossime settimane. CNH Industrial, secondo miglior titolo della seduta, più 3%, più 2,98, Finecobank più 2,21, ricordati più 1,61, quindi una pattuglia di settori mista, Brembo più 1,18, Leonardo Finmeccanica in rialzo di un punto, Terna più 0,8, Intesa San Paolo più 0,7, Fiat più 0,7%, continua ad andare bene, ieri ne abbiamo parlato a lungo per tutte le novità presentate negli Stati Uniti, ma oggi il gruppo riceve una raccomandazione positiva di Mediobanca, anche ho letto, Andrea. Sì, assolutamente, questo sostiene il titolo, diciamo che l'attenzione degli analisti in questi due giorni insomma è concentrata anche sui primi dati delle immatricolazioni relativi al mese di dicembre e i dati un po' di consuntivo del 2016, molto positivo su alcuni mercati europei e anche in Italia, ancora in calo per esempio negli Stati Uniti, tre mesi di calo consecutivo, meno 10% nel mese di dicembre, ma un dato che è stato letto comunque in maniera parzialmente positiva dagli esperti, perché ha visto una forte riduzione delle vendite alle flotte aziendali, che sono un tipo di veicoli che solitamente lasciano un po' margini un po' inferiori rispetto alle vendite tradizionali, e quindi è stato anche un po' letto come una definizione di un mix di vendite un po' diverso da parte di Fiat Chrysler, chiaro, purché appunto questo calo negli Stati Uniti non continui in maniera consistente, e un calo è stato accusato anche per quanto riguarda le vendite sul mercato brasiliano. Allora andrei adesso all'altra parte della classifica per monitorare i peggiori della giornata. Abbiamo cali di mezzo punto su un bel gruppo di titoli: Mediobanca, Tenaris, Generali, Poste Italiane, Ferrari perde quasi un punto, Telecom meno 1,40, la peggiore oggi Luxottica meno 3%. So che voi attribuite questo calo avendo sentito degli analisti, alla questione della riorganizzazione della governance del gruppo. Io immaginavo che in realtà anche un po' il netto calo del dollaro avesse influito sulla prestazione del titolo, visto che questa è una società che esprime molta parte del suo fatturato nella divisa statunitense. Andrea. Sì, certamente diciamo nel finale l'allargamento delle perdite, che diciamo dall'1,5-2% è passato al 3%, è effettivamente coinciso con un petrolio, con un dollaro che sta perdendo l'1% nei confronti dell'euro, e sta perdendo anche l'1,5% ad esempio nei confronti dello yen giapponese, quindi una correzione consistente del biglietto verde nel corso della giornata, che è tornato a 1,06 nei confronti dell'euro. Però certamente negli ultime 3-4 sedute questo titolo sta soffrendo un po' anche questo fattore governance, dopo che la SEC, come segnalato al Sole 24 Ore a fine 2016, aveva chiesto delle delucidazioni sulla struttura di governance del gruppo. Sappiamo che più volte le deleghe, quindi la guida, è passata a diversi manager nel corso degli ultimi 2 anni, per poi ritornare al patrono Leonardo Del Vecchio. La SEC ha chiesto delucidazione, quindi un riassetto che lascia qualche elemento di incertezza, che quindi fa un po' soffrire il titolo, ma certamente nel finale soprattutto l'effetto dollaro si è fatto sentire su questo titolo. Giornata in colore per Mediaset, UbiBanca e Popolare dell'Emilia Romagna ferme sulla parità. Per Mediaset giornate comunque calde, perché si avvicina sempre di più la data dell'appuntamento di Londra per la presentazione del piano industriale. Questo è l'ultimo titolo che affrontiamo oggi, Andrea. Sì, il 18 gennaio Mediaset svelerà questo piano triennale al 2020, un piano che ha avuto una nascita piuttosto tortuosa, visto che doveva essere presentato praticamente alla fine dell'estate, nel momento in cui Mediaset lasciava le attività di TV a pagamento, cioè Mediaset Premium, a Vivendi, per concentrarsi sull'attività tradizionale, il core business della TV in chiaro. Lo stallo, il dietrofront di Vivendi sul contratto per l'acquisto di Premium, e quindi lo stallo che ne è derivato, ha consigliato di allungare i tempi. Quello che si dice soprattutto sulla TV in chiaro è di un piano molto concentrato sul cogliere nei prossimi anni delle opportunità di espansione della TV in chiaro all'estero, su nuovi mercati, mentre siete forte sia in Italia che in Spagna. Si parla anche di mercati anglosassoni e di mercato tedesco, ma certamente gli operatori si aspettano anche delle indicazioni per quella che è la TV a pagamento, visto che nel 2017 sono attese le cruciali aste sui diritti del calcio, che rappresentano il principale contenuto esclusivo di Mediaset per quanto riguarda la Champions League e poi anche per la Serie A, e quindi capire se si andranno a affrontare quelle gare e con che tipo di investimenti sarà importante appunto per il giudizio sulle prospettive della società. Grazie ad Andrea Fontana. Velocemente andiamo negli Stati Uniti. Corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Marco Valsania, buonasera. Buonasera a voi. Allora, se tu e Mario Platero vi foste messi insieme a comprare regali a tutte le colleghe italiane, probabilmente Macy's non avrebbe avuto questa crisi così drammatica, Marco. Quindi un po' colpa vostra se tagliano 6.200 posti di lavoro, se il titolo tracolla in borsa e ci va di mezzo tutto il settore, non solo della grande distribuzione americana, ma insomma l'abbigliamento, queste catene così rinomate, quelle per le quali noi italiane siamo così tanto appassionate a venire a fare shopping negli Stati Uniti. Ma che succede? Chiedo venia, sicuramente ragione, visto il nostro enorme potere d'acquisto come giornalisti, sicuramente ci sarebbe... sarebbe fatta sentire la nostra, il nostro intervento su Messi. Certo, infatti, comunque la crisi è seria. Esatto, purtroppo hanno dovuto fare i conti invece con una certa avarizia dei consumatori americani, e probabilmente con una tendenza crescente invece al successo dei protagonisti delle vendite digitali, dell'online, dell'e-commerce, e quindi soprattutto catene che nell'ultimo anno hanno comunque faticato un po' e avviato riorganizzazione, come Macy's, che comunque ha in corso già ripensamenti, chiusure di negozi considerati non redditizi. Ecco, hanno visto accentuata questo loro declino, e adesso dovranno fare i conti con un 2017 sicuramente non certo. facile, come si schiuderà 68 grandi magazzini nel corso dell'anno. Allora, intanto questo annuncio non si farà sentire presumibilmente sul dato sulla disoccupazione americana che viene diffuso domani, però che aspettative ci sono? Oggi l'agenzia ADP dice che il settore privato ha creato a dicembre 153.000 nuovi posti di lavoro, un dato inferiore alle attese, gli analisti se ne aspettavano almeno 175.000. Domani che previsioni ci sono, Marco? Ma sì, domani diciamo l'idea è che appunto la creazione di posti di lavoro continui e quindi confermi il buon momento comunque della ripresa americana, e concluda l'anno, diciamo il 2016, con un dato relativo a dicembre piuttosto sostenuto, anche se appunto probabilmente sotto i 200.000 posti di lavoro. Nell'insieme le previsioni quindi dovrebbero confermare quella che è un po' l'attesa a questo punto della Federal Reserve di una crescita che marci a passo ancora moderato nel 2017, ma semmai con qualche possibilità forse di accelerare, soprattutto se le politiche promesse dalla nuova amministrazione Trump avranno qualche tipo di esito, ancora tutta da verificare, ma che potrebbero appunto, soprattutto gli investimenti infrastrutturali e la deregulation e gli eventuali sgravi fiscali potrebbero in qualche modo dare semmai un piccolo aiuto anche alla crescita. Allora, ci sarebbero tanti altri argomenti da affrontare, Marco, io appena 30 secondi, il dollaro continua a scendere sull'euro, l'euro lo schiaccia a 1,06, notizie? Ma sì, oggi è una fase di presa di realizzi di profitto, diciamo, sul dollaro, e però ricordiamo che appunto ha marciato molto, e l'attesa per il 2017 è ancora che il dollaro ha portato di mano la parità sull'euro, proprio perché appunto il trend di aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, comunque di una ripresa che dovrebbe diciamo tenere il passo, semmai forse rafforzarsi, dovrebbe aiutare comunque il dollaro con le oscillazioni che sempre ci sono sui mercati valutari, ma comunque spingerlo poi al rialzo verso la parità sull'euro, ecco, salvo che tutti questi pronostici poi si rivelino magari sbagliati. Esatto, come tutto l'anno scorso ne abbiamo fatto altre che previsioni e le abbiamo sbagliate tutte quante, per cui anche questa si unirà al coro. Intanto il Dow Jones perde mezzo punto, i 20.000 punti anche per oggi mi sa che non li vediamo. Grazie a Marco Valsania di New York, Focus Economia termina qui, ci sentiamo domani, buona serata a tutti. Radio 24, libera la voglia di fare.